e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare. Che cosa state cercando? Che cosa avete cercato stamattina appena vi siete svegliati? Se cercavate noi, me e Deborah, ci avete quasi trovate al 50%, perché Deborah la troverete domani sempre qui con me. Se invece state cercando rete wifi libere, io ho una notizia per voi. In realtà è una notizia di qualche giorno fa che ci porta su un volo della Virgin America diretto a Boston da San Francisco. Basta il nome di una rete wifi che ricordava la marca di un cellulare che è stato ritirato per problemi tecnici a scatenare il panico a bordo della serie basta la parola, come si diceva una volta a Carosello. Tutto per fortuna è andato bene, è finito bene, ma questa notizia ci ha fatto venire l'idea di chiedervi se vi connettete senza problemi a wifi liberi, se avete cambiato il nome della vostra rete e quindi nel caso raccontateci come l'avete chiamata. Tra poco ci verrà a trovare in studio anche il nostro Enrico Paglierini, che ci darà tutte le notizie del caso, perché in America è diventata una vera moda. Naturalmente questa è una notizia di apertura che porteremo un po' avanti nel corso della nostra trasmissione, coinvolgendovi a raccontare le vostre storie. Non mancheranno naturalmente i temi di denari. Nella seconda parte del programma parleremo di tasse sugli affitti. C'è una novità che riguarda i proprietari di casa che hanno scelto la formula della cedolare secca, salvaguardando così più smemorati, vedremo come, e parleremo anche di pratiche commerciali scorrette messe in atto da quelle società che ci vogliono magari proporre un contratto contattandoci al telefono. Ma adesso iniziamo subito con la nostra rassegna stampa di cuore, andiamo! Allora, per la nostra rassegna stampa di cuore partiamo da uno studio che arriva dall'Università di Harvard e sottolinea l'incombente pericolo dei superbatteri, batteri in grado di resistere a tutti o quasi gli antibiotici disponibili. Già a settembre, se vi ricordate, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dedicato proprio una sessione al problema della resistenza agli antibiotici, richiamando proprio tutti i governanti di tutte le nazioni ad affrontare queste vere e proprie emergenze, quindi chiedendo politiche sanitarie specifiche per risolvere questa minaccia che, pensate, uno studio scientifico commissionato dal governo inglese ha ben delineato, ipotizzando che 10 milioni di morti all'anno, 10 milioni, da qui al 2050 a causa di questa resistenza. Allora noi siamo in collegamento con il nostro esperto, il professor Claudio Viscoli, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'Università di Genova al San Martino e presidente della SITA. La SITA è proprio la Società Italiana per la Terapia Antinfettiva. Buongiorno, professor Viscoli. Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato. E bentornato. Allora, l'ultima notizia battuta dalle agenzie riguarda una donna morta per un superbatterio che nessuna sostanza è riuscita a curare. Quindi il caso ha riaperto il dibattito sull'antibiotico resistenza. Ma, professor Viscoli, come mai siamo arrivati a questo punto? Ma intanto vorrei dire che oramai questo per noi è attività di ogni giorno, è problema di ogni giorno, nel senso che l'avere a che fare con infezioni, con germi che sono isolati dal sangue, in setticemie, con batteri che sono resistenti a tutto o quasi tutto, è oramai attività giornaliera. Certo. E quindi questo è veramente un dramma di cui forse la gente non è consapevole, non si rende ben conto, ben superiore, non so io, tanto allarme, per carità, non che non ci si debba allarmare per i casi di meningite, ma insomma questo è un problema ancora più grosso, ecco, veramente enorme, che può riguardare chiunque di noi. Perché siamo arrivati a questo? È un discorso lungo e difficile. Però io sono sicura che lei riesce a spiegarcelo in modo chiaro. Perché siamo arrivati a questo? Siamo arrivati a questo perché abbiamo abusato degli antibiotici, cioè li abbiamo usati male, dappertutto, è un po' colpa di tutti, in ospedale e fuori dall'ospedale. Certi paesi li hanno usati meglio e infatti hanno meno problemi, certi altri, compresi noi, li hanno usati peggio e quindi noi siamo tra i paesi europei che hanno più problemi di resistenza agli antibiotici. Professore, poi... voglio ricordare anche così per dare delle immagini ai nostri ascoltatori là dove magari le parole non servono. Voi avevate, ne avevamo parlato, fatto proprio una campagna, una bella idea, un super vampiro che irrompe come una nuova minaccia tra gli abitanti di un villaggio che proprio dai vampiri si erano liberati ma che avevano un po' abusato del rimedio. Esatto. Ecco, è una campagna che racconta bene quello che è successo, perché come lei ha sottolineato abbiamo avuto troppa disinvoltura noi e forse voi anche medici, e forse non ci sono state le adeguate informazioni, anche se le campagne sono state tante e molte di queste fatte bene, per ricordare che sono assolutamente dei farmaci preziosi ma vanno usati in casi selezionati e sotto controllo medico. È così. Assolutamente, è così. È così, e comunque il problema, come lei ha detto giustamente, riguarda anche i medici, perché deve entrare a far parte della cultura del medico il fatto che l'antibiotico non è una cosa che tu usi come fosse un antipiretico, come fosse un antifebbre. Io cerco di inculcarlo molti infettivologi quando fanno lezione cerchiamo di farlo capire molto fortemente agli studenti da alcuni anni. Perché dobbiamo crescere una generazione di studenti di medici più consapevoli di questo problema, e anche dobbiamo agire sui medici che sono oramai non più nelle università, e anche su di loro dobbiamo agire sicuramente. Allora, ai miei ascoltatori chiedo: qual è l'ultima volta che avete preso un antibiotico? Lo avete fatto su indicazione del vostro curante oppure avete magari approfittato della confezione rimasta lì nell'armadietto dei farmaci di casa vostra? E ditemi la verità, voi rispettate dosi, tempi e durata della terapia oppure fate di testa vostra e quindi quando il problema sembra risolto interrompete? 800 24 00 24. Professore, Enrica ci scrive, ci manda un WhatsApp scrivendoci: ma questo allarme vale anche per chi gli antibiotici non li ha mai presi? Purtroppo sì, perché i germi resistenti rischiano di uscire dagli ospedali e di entrare poi a far parte della nostra flora intestinale normale, che poi è normale fino a un certo punto. Non so se posso citare velocissimamente un lavoro che dimostra come chi per esempio va in certi paesi del mondo dove questi batteri sono diventati molto comuni, torna colonizzato, cioè con la propria flora intestinale portatore di questi batteri, che poi stanno lì tranquilli e non è che causano malattia finché tutto va bene. Se poi succede qualcosa a una persona che deve essere operato, che si ammala, che deve andare in ospedale, che si ammala di altre malattie, allora questi possono causare dei problemi. Giuseppina, in modo un po' così, punzecchia ai pediatri, perché ci scrive: l'informazione deve iniziare dai pediatri. Diamo troppi antibiotici ai bambini, professore? Cosa dicono i dati? Sicuramente i dati dicono innanzitutto che usiamo troppi antibiotici negli ospedali. Lei pensi che ci sono dei dati che dicono che il 50-60% dei malati negli ospedali prende un antibiotico, e certamente non tutti sono infetti, quindi molti lo prendono inutilmente. Per quanto riguarda l'uso fuori, i pediatri credo siano in passato, sicuramente tutti i medici esterni hanno medici di base, pediatri, hanno esagerato, però credo che in particolare tra i pediatri ci sia una maggiore consapevolezza ultimamente. Almeno questo è quello che sento dire nelle riunioni a cui partecipo. Allora, professore, quando vanno utilizzati gli antibiotici e come, che cosa dobbiamo sapere per utilizzarli bene? Sicuramente il nostro medico curante ci dà tutte le indicazioni, ma vogliamo ripeterle? Gli antibiotici vanno usati per curare una malattia infettiva batterica. Quindi non l'influenza. Non l'influenza, non i virus, perché gli antibiotici non funzionano sui virus, quindi va usata. Naturalmente bisogna ricordare che gli antibiotici non vanno usati a sproposito, ma vanno usati quando ci vuole, perché non vorrei che passasse il messaggio opposto, che poi alla fine non si usa l'antibiotico quando avreste dovuto usarlo. Perché ci sono tante persone. Fa parte della scienza medica conoscerlo, ovviamente, è difficile spiegarlo in quattro parole, però Per esempio, se quando io dopo che ho l'influenza, adesso c'è tantissima influenza in giro, no? Mi viene l'influenza, sto 4 giorni col mal di testa, mi cola il naso, tossisco, eccetera. Quello io non prenderei antibiotici. Poi mi passa la febbre. Dopo 2 giorni, magari sono una persona anziana, non mi sono vaccinato, dopo 2 giorni ricompare la febbre forte. Allora, questa è un'indicazione che questa può essere una sovrinfezione batterica. Allora, in questo secondo caso, sicuramente devo usare gli antibiotici. E anche al dosaggio giusto e anche in tempo. Questo è un piccolo esempio. Certo, ma è un esempio molto chiaro. Claudio, dalla provincia di Brescia, perché il tema ha suscitato grande interesse nei nostri ascoltatori, questo ci fa piacere. Perché quasi nessun medico fa eseguire un antibiogramma? Gli antibiotici non sono tutti uguali, bisogna usare quello giusto per il nostro problema. È necessario un antibiogramma, sempre, professore? Assolutamente, certamente sì. Normalmente è il laboratorio di microbiologia che automaticamente fa l'antibiogramma, salvo casi particolari. Ora, almeno così dovrebbe essere, se poi ci sono laboratori che non lo fanno, io questo non lo so. Comunque, sicuramente qualunque isolamento significativo, significativo, cioè vuol dire che se io mi faccio un tampone della bocca è chiaro che trovo dei germi, ma se trovo certi germi l'antibiogramma è automatico e la scelta dell'antibiotico dovrebbe essere basata sull'antibiogramma. È proprio lì l'errore, di dare antibiotici ad ampio spettro, certo, che ammazzano un po' tutto e non mirare su quello giusto. Allora, io ricordo che sul sito antibioticilanostradifesa.it sono disponibili informazioni utili sull'antibiotico resistenza, le regole per il corretto uso di questi farmaci, video interviste anche con gli esperti infettivologi della SITA e anche un test per misurare il proprio livello di conoscenza, di consapevolezza sul problema delle infezioni multiresistenti e strumenti anche di condivisione social. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi. Io voglio dare la linea alla redazione per aggiornamenti e poi informazioni sul traffico e ritorniamo subito dopo insieme. Grazie. Allora Nicoletta, un aggiornamento proprio sulla scossa di terremoto, notizia data poco fa. Il terremoto è stato di magnitudo 5.3 secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed è avvenuto tra L'Aquila e Rieti. La scossa è stata avvertita distintamente sia a Roma sia a Firenze, addirittura fino in Emilia-Romagna, quindi siamo in attesa di capire esattamente dove sia avvenuta, quale sia l'epicentro e di capire a questo punto anche quali siano state le conseguenze. A più tardi. Cuore e denari. E noi riprendiamo la nostra rassegna stampa della salute, pronti a dare la linea alla redazione per aggiornamento sulla nuova scossa di terremoto che si è registrata tra L'Aquila e Rieti. Torniamo a parlare di ricerca, torniamo a parlare di batteri. Uno studio americano pubblicato su Cell spiana la strada ad una nuova generazione di probiotici amici del dimagrimento. Perché? Perché sembra che se l'ago della nostra bilancia non va giù, la colpa potrebbe essere proprio di batteri che vivono nel nostro intestino. E allora abbiamo in linea con noi la dottoressa Beatrice Salvioli, gastroenterologa di Humanitas, ricercatrice all'Università di Bologna, con cui continuiamo a parlare di batteri, ma da un altro punto di vista. Intanto benvenuta, dottoressa Salvioli. Grazie. Grazie mille, grazie a voi. Allora, in questo caso, dopo aver parlato di antibiotico resistenza e quindi di batteri super resistenti, parliamo di batteri che dobbiamo tenere in grande considerazione, batteri che abitano nel nostro intestino. Esattamente. I batteri praticamente... Noi siamo nulla contro i batteri, sì, ci sono queste immagini dell'uomo che praticamente è un batterio unico perché le cellule sono miliardi di batteri che vivono in noi. Lei tenga presente che in un uomo adulto avremo 1-2 kg di batteri nella nostra pancia. Ora questi batteri si stanno studiando molto negli ultimi anni perché si sono visti implicati in vari processi, fra cui le difese immunitarie, il benessere intestinale, il benessere della pelle e anche il benessere psichico. Certo, si parla proprio di microbiota. Esattamente, è un microbiota, quindi è una famiglia di batteri, ce ne sono tantissimi. Ora, le conoscenze in ambito di ricerca non coprono il 100%, quindi ci stiamo attestando sul 60% e comunque sono test che non sono ancora commerciabili, non vengono eseguiti nella pratica clinica, ma sono delle indagini che vengono utilizzate in campo di ricerca. Di questi batteri noi abbiamo anche la conoscenza sui geni e noi nasciamo con un nostro patrimonio genetico dei batteri. I batteri poi vengono a cambiare durante il corso della vita, vuoi per gli antibiotici che ci danno da quando siamo piccole, per la dieta, perché delle popolazioni che vivono in Europa hanno un tipo di batterio completamente diverso da quelli gli africani, per esempio, per cui l'alimentazione, la terapia che si assume fin da piccoli e gli stress che si vanno a accumulare nella vita causano uno scompagimento incredibile del nostro patrimonio batterico e questo ovviamente ci influenza su tutte le nostre funzioni dal mio punto di vista digestivo ovviamente. Possiamo paragonarlo a uno straordinario vivaio che alimenta, esatto, la nostra salute e il, esatto, nostro benessere. Quindi così oggi cerco di legare queste informazioni a delle immagini. Che cosa possiamo fare allora per mantenere bene questa risorsa? Allora, questo studio è stato, ecco, è molto interessante quando si parla di dieta e batteri e del fatto che le persone che stanno costantemente a dieta e non riescono a dimagrire, uno dei motivi potrebbe essere proprio la presenza di batteri che ci sono nemici, però ci sono altri che si sono un po' inceppati. Esatto, ecco. Si sono inceppati nel meccanismo per cui non trasmettono i segnali necessari per smaltire determinati tipi di cibi, per cui uno rimane con quella dieta ma non riesce a dimagrire. Ci sono anche degli studi molto interessanti che sono stati pubblicati sul fatto di come viene modificata la flora batterica a seconda del regime alimentare. Le faccio un esempio: se noi cambiamo alimentazione e diventiamo vegetariani per qualche giorno, già si notano delle alterazioni della flora batterica. Viceversa, se diventiamo carnivori, già si producono altri batteri e poi è ovvio che poi si pensa al fatto della carne come nociva per quanto riguarda le malattie del colon perché stimola l'infiammazione, ma questa infiammazione è mediata dai batteri. Quindi i batteri sono diventati proprio i messaggeri di quello che noi introduciamo con la dieta e di quello che avviene nel nostro organismo. Quindi è un trade union molto importante. Quali sono, dottoressa Salvioli, prima di dare nuovamente la linea al nostro GR, i segnali che ci devono far suonare dei campanelli d'allarme che ci dicono che questo vivaio, così l'abbiamo definito oggi, è sofferente, un po' come le nostre piante in appartamento che a volte sono un po' moscette? Sì, perché non prendono luce, quindi. Ma noi abbiamo, dal punto di vista gastroenterologico, si possono avere diversi sintomi che vanno da quel gonfiore addominale, da alterazioni della modalità di evacuazione, quindi può essere più stipsi, più diarrea e possiamo avere questa sensazione di stanchezza. Certo. Dal punto di vista poi dermatologico si possono avere degli eritemi, degli eczemi e negli ultimi anni è molto interessante il dato su anche l'influenza del tono dell'umore, quindi possiamo avere un tono dell'umore depresso o ansioso che può essere legato a un'alterazione della flora batterica. Quindi diciamo che anche dal punto di vista uroginecologico ci possono essere delle alterazioni come le cistiti. Diciamo che veniamo presi a 360 gradi perché siamo ostaggi dei nostri batteri alla fine. Dottoressa Salvioli, prima di salutarci, due indicazioni, due consigli per tenerci agli amici, per coccolarli, perché sono così importanti, siamo un po' nelle loro mani, diciamo così. Siamo nelle loro mani, la cosa immediata di, sì, 30 secondi. I pazienti potrebbero dire vado a prendere dei probiotici in farmacia, in realtà non è tutto lì, Quindi noi dovremmo modificare la nostra dieta e lo stile di vita. È la cosa migliore in assoluto per mantenere un buon equilibrio della flora batterica. Dottoressa Salvioli, grazie per essere stata grazie con noi. A lei, le auguro una buona giornata e buona salute ai suoi batteri. Andiamo a sentire le notizie del nostro GR, poi ritorniamo subito dopo insieme. A tra poco. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Venerdì 20 gennaio 2017. Radio 24 vi porta alla cerimonia di insediamento del 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'appuntamento in diretta, all'interno di Focus Economia, pochi minuti prima delle 18. Al portico est del Campidoglio si rinnova una tradizione iniziata quasi due secoli fa. I love this country. Thank you very much. Venerdì 20 gennaio alle 17.50 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile. Cambiare tutte le abitudini, eliminare le meno utili e cambiare direzione. Hey! Cambiare marca di sigarette o cercare perfino di smettere, non è E a proposito di smettere, se avete deciso di smettere, volete farlo con noi, di smettere di fumare, non di ascoltarci, andate sulle pagine di Cuore Denari, cercate Smetto di fumare, i consigli del dottor Boffi e della dottoressa Munarini, quindi un clinico e una psicoterapeuta per aiutare a fare il grande passo, ma soprattutto sostenere. Naturalmente abbiamo bisogno anche che voi sosteniate chi decide di cambiare con noi e poi fare una rete. Se invece avete deciso di cambiare stile alimentare, e in questo periodo ci hanno accompagnato i consigli del dottor Ongaro, restate con noi, diteci com'è andata, che cosa avete raggiunto, quale risultato avete raggiunto, quale difficoltà state incontrando. Il dottor Ongaro è in linea con noi, è tornato a trovarci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Deborah non c'è, dottor Ungaro, torna domani. Deborah. Eh no, sono da sola oggi, domani siamo in due. Però allora, buongiorno Nicoletta. Ma io porto i suoi saluti a Deborah, che sarà molto contenta. Intanto il dottor Ungaro ci ha accompagnato in questi giorni, questi primi giorni dell'anno, per aiutarci a cambiare stile di vita, a guadagnare salute. Dico stile di vita perché i consigli del dottor Ungaro riguardano non solo l'alimentazione, ma anche un po' il modo di essere e di stare nella nostra quotidianità, le abitudini. Insomma, lavoriamo sulle due dimensioni, soma e psiche. Pancia e cervello, dottor Ungaro. Penso che sia un po' una cosa trascurata per tanti anni, no? Cioè il vedere la dimensione, per esempio, dell'abitudine alimentare o della dieta come un problema esclusivamente alimentare, nutrizionale. In realtà, insomma, le abitudini ce le diamo con la testa e dunque finiamo con l'adottare un certo tipo di stile alimentare in funzione dei pensieri che abbiamo, delle modalità operative che ci diamo tutti i giorni. Quindi pensare, quando ci si avvicina a una volontà di cambiamento del proprio stile di vita, anche in questi termini, può essere molto utile, così come è utile pensare, l'abbiamo detto tante volte, a sostituire le abitudini più che ad abbandonarle, cioè è più facile sostituire un'abitudine cattiva con una buona che semplicemente eliminare quella cattiva, no? Certo, 800 24 0024 per raccontarci la vostra esperienza, chiedere un consiglio, un aiuto. D'altra parte, dottor Ongaro, questo legame stretto che c'è tra tra il cervello e le nostre scelte, il nostro umore, è ben raccontato dall'esperienza di persone che, ad esempio, quando sono particolarmente stressate mangiano di più, ad altre invece, come si dice, si chiude lo stomaco. Questo a sottolineare che mangiamo con la bocca, però il problema viene gestito nella cabina di regia, quella in alto, su cui lei poi ci darà anche tante indicazioni. Dottore. Sì, diciamo che molte ricerche negli ultimi anni sostengono che ci sono due macro situazioni psicoemotive che trainano e spingono verso determinati comportamenti. Una è l'ipervigilanza, che vuol dire stare in uno stato di continua tensione e stress, molto spesso nell'aspettativa che sta per accadere purtroppo qualcosa di negativo, e questo crea una situazione di tensione nell'organismo che è molto collegata alla genesi di alcune problematiche, per esempio come l'ipertensione, tanto per citarne una. E l'altra macro situazione psicoemotiva viene identificata nell'iposoddisfazione, cioè in quella latente sensazione di non essere sufficientemente appagati e contenti, che ci porta indubbiamente a cercare, in particolare negli alimenti, un compenso. E ormai si sa senza ombra di dubbio che gli alimenti hanno un'azione veramente a livello neurobiochimico molto molto importante, danno una sensazione di momentaneo appagamento, però è chiaro che poi quell'appagamento momentaneo potrebbe portarti completamente fuori rotta nel lungo termine. Dottor Ongaro, è importante non solo quello che mangiamo, come lo mangiamo, ma anche quando mangiamo, ad esempio la colazione, che è il pasto che ci dà la carica per affrontare la giornata. Abbiamo sottolineato tante volte con lei e con i suoi colleghi l'importanza di questo primo mini pasto della giornata. Dovrebbe essere consumato entro mezz'ora, al massimo un'ora dal risveglio, e la cena, come insegnavano anche i nostri nonni, dovrebbe essere un po' anticipata. Questo per dire che anche la cronobiologia ha dato un contributo alla scienza dell'alimentazione. Beh, indubbiamente è un ramo della ricerca molto interessante che spesso viene un po' trascurato, messo in secondo piano, ma in realtà non conta soltanto che cosa e quanto mangiamo, ma anche quando mangiamo. La colazione è un esempio, così come l'esempio della cena anticipata. Un altro grande esempio di cronobiologia applicata all'alimentazione è quello relativo a come mangiare attorno, quindi prima o dopo un'attività fisica intensa. E devo dire che ci sono molte ricerche in questi ultimi anni che si occupano anche di un filone quasi apparentemente contrario a questo. Ci sono effettivamente alcuni studi che mostrano che non c'è un grande impatto se si fa o non si fa colazione sul metabolismo. Credo però che sia prematuro per scartare tanti altri studi che dicono il contrario, ma soprattutto una lunga tradizione che dice il contrario, anche per una ragione anche qui psicologica. Cioè, noi sappiamo che molte delle persone che finiscono con l'adottare un'alimentazione sbagliata hanno una carenza di ritmo nell'alimentazione. Sono persone che spesso non mangiano nulla per ore e ore e poi si abbuffano di colpo. Quindi credo che al di là delle ragioni metaboliche ci siano anche delle ragioni proprio psicocomportamentali per suggerire che è meglio mangiare poco e spesso, a partire sicuramente dalla prima colazione del mattino. Dottor Ongaro, diamo di nuovo la linea alla nostra redazione per aggiornamenti. Sì, Nicoletta, un aggiornamento purtroppo per annunciare una nuova forte scossa di terremoto che è avvenuta proprio qualche minuto fa alle 11:14. Ovviamente ancora non abbiamo la magnitudo, ancora non abbiamo l'epicentro, ma è verosimile che sia lo stesso, quindi tra Monte Reale e Amatrice. Tra pochissimo alle 11:30 faremo ancora il punto della situazione insieme su quello che sta succedendo nel centro Italia. Noi vi aspettiamo. Grazie alla redazione. Dottor Ongaro, torniamo al tema che stiamo affrontando con lei, torniamo a parlare di alimentazione, torniamo a parlare di ritmi. Lei lo sottolineava bene, ci sono delle persone che stanno tanto tempo durante la giornata senza mangiare e poi si abboffano. Anche questo può contribuire al fallimento della nostra dieta. Non mi piace usare questo termine, ma del cambiamento del nostro stile alimentare. Quindi non produrre gli effetti desiderati, che sono quelli di perdita di peso, ma anche di un benessere generale che avvertiamo quando ritorniamo in forma. Sì, senza dubbio, perché una delle cose che dobbiamo cercare assolutamente di evitare nel momento in cui desideriamo mettere sotto controllo la nostra alimentazione è la crisi di fame. Questo sembra ovvio, ma in realtà spesso sfugge. Cioè, sì. Il concetto è che diventa molto difficile stare a regime e rispettare le norme della dieta che si è scelto di seguire se si è in preda ad una crisi di fame. Ed è chiaro che la crisi di fame dipende in maniera abbastanza lineare dalle ore di digiuno. Dunque credo che il cercare di dare una regolarità alla propria alimentazione, cosa che spesso non si riesce a fare perché la persona stessa per prima ti dice ma io al mattino non ho fame, per esempio, è però in realtà parte del percorso di correzione delle abitudini e del metabolismo. Quindi bisogna insistere un pochino, e spesso la variabile di questa sorta di situazione di stallo è perché si mangia effettivamente troppo la sera. Allora, mangiare meno la sera significa alzarsi la mattina con un po' più di fame e fare colazione, quindi. Esatto, impostare nuovamente il ritmo di quella giornata in maniera corretta. Quindi, dottor Ongaro, in questi minuti che vogliamo mettere un po' appunto le regole per cambiare con il passo giusto. Prima regola, mangiare a orari stabiliti e non continuare o a mangiucchiare durante tutto il giorno o restare senza mangiare per tante ore. Possiamo dire la prima regola? Questo può avere delle ripercussioni positive. Abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione anche di batteri che si mettono un po' di traverso, di batteri intestinali che secondo una ricerca, e questo ha suscitato grande interesse da parte degli ascoltatori che naturalmente li vogliono scovare, vogliono capire se il loro nome, come cacciarli o come educarli a collaborare, questi batteri che potrebbero in qualche modo evitare, cioè mettersi di traverso e quindi ostacolare la perdita di peso. Dottor Ongaro, ne abbiamo parlato con la dottoressa Salvioli, gastroenterologa, che ci ha raccontato e sottolineato l'importanza della flora intestinale e anche ci ha illustrato che cosa la fa cambiare e come possiamo recuperare la salute e l'equilibrio. Quali indicazioni può suggerirci? Possiamo scovare i batteri responsabili eventualmente della non perdita di peso, del fallimento della nostra dieta? Beh, allora io credo che sia giusto fare una piccola distinzione. Un conto è quello che emerge dalle ricerche, un conto è quello che è determinante e fondamentale da applicare subito da domani nei programmi nutrizionali. E credo che se è vero, e certamente lo è, che sempre più dati indicano quanto importante sia avere una flora batterica intestinale sana, non è però così semplice da un punto di vista clinico oggi andare a determinare esattamente il ceppo coinvolto. Certo. Ci sono degli esami che si possono fare, ma non vorrei così lanciare l'ipotesi che si possano fare ovunque, perché così non è. Insomma, bisogna sono esami molto specialistici, non tutti i laboratori sono attrezzati per farlo. Ma aggiungerei anche un'altra cosa: non sono così convinto che queste variabili siano delle variabili di enorme peso. Sono delle variabili importanti sul piano scientifico, perché ci insegnano sempre di più quanto complesso sia il tratto gastrointestinale e quanto importante sia la salute in genere della flora batterica, che poi voglio dire è un perno centrale del sistema immunitario, quindi ha delle funzioni veramente molto importanti. Sì. Però da questo a dire guarda, se non perdi peso è colpa del batterio, esatto. Sarebbe una scorciatoia. È uno dei tantissimi importanti tasselli. È un dettaglio in più, ma non è la cosa determinante. Infatti, Giordano, l'idea che se non conosci il batterio non puoi perdere peso. Questo non è così. Infatti, Giordano aveva scritto: uno è grasso perché mangia troppo e male, altro che batteri. Non create comode scuse per chi è sovrappeso. No, ci sono ricerche. Ecco, da lì da passare da una lettura un po' estrema, quella di Giordano, perché comunque la ricerca è volta a capire qualche cosa di più. D'altro canto, dottor Ongaro, noi abbiamo tante opportunità per far sì che il nostro cambiamento, quello che mangiamo, produca davvero benessere a 360 gradi. Dottor Ongaro, torniamo quindi al, abbiamo detto, i ritmi, il ritmo è molto importante. Quali sono le altre trappole che possono in qualche modo provocare un fallimento dello stile alimentare che così con grande fatica, perché all'inizio si fa fatica, alcune persone stanno adottando proprio all'inizio dell'anno, per dire anno nuovo, vita nuova, forma nuova, peso nuovo? Sì, beh, un altro errore molto comune che mi viene in mente è di non garantirsi un apporto sufficiente di fibra, per esempio, perché la fibra sia in termini di salute generale che in termini di salute proprio del tratto gastrointestinale, della flora batterica, ma anche in termini di sazietà è un elemento molto importante. Dunque la scelta di cui abbiamo parlato tante volte, non solo di abbondare con la verdura in particolare e molto di più che con la frutta, ma anche la scelta di passare dai cereali raffinati ai cereali integrali, chiaramente fa una differenza importante. E in termini di sazietà sicuramente dà un contributo. La stessa cosa vale per la sazietà, ma vale anche per altri aspetti della regolazione metabolica, è quello di stare attenti di non scendere troppo con il consumo di proteine. Ecco, ci dà qualche indicazione a riguardo, perché ecco, le proteine sono un argomento molto delicato, dottor Ongaro. Ma io credo che ci sia sempre in questi anni, quando nasce un tema poi si rischia sempre di esasperarlo un po', e credo che sia bisogna usare il buon senso. Credo che sia veramente questo il discorso con le proteine. Cioè, nessuno dice che bisogna fare una dieta strapiena di proteine, ma passare da questo a dire che le proteine sono la causa di ogni male mi sembra veramente un salto molto molto ampio. Il concetto delle proteine è di saperle scegliere, quindi certamente dare più spazio a quelle proteine, per esempio come il pesce, su cui non esistono altro che dati positivi sull'utilizzo nell'alimentazione, ridurre invece quelle proteine di cui sappiamo già che c'è una componente meno sana, per esempio le carni lavorate, per esempio gli insaccati, e soprattutto considerare che un'alimentazione sana è un'alimentazione bilanciata e completa in cui ci sono tutti i macronutrienti, e di ogni macronutriente scegliamo la versione di qualità migliore. È chiaro che va capito che il nostro corpo è fatto in gran parte di proteine e che quindi il rischio che corriamo nel fare un'alimentazione che ne è troppo povera è di indebolire il nostro organismo. E sappiamo anche che una delle cose più tipiche negli anziani di oggi, da cui poi derivano tante altre problematiche, è proprio la sindrome da fragilità e la perdita di massa muscolare, che dipende in maniera molto stretta sia dall'abitudine all'attività fisica che però anche dalla quantità di proteine che uno mangia, tant'è che anche gli studi più recenti, e mi riferisco agli studi per esempio di Walter Longo, di cui tanto si è parlato in questi ultimi mesi, confermano che da una certa età in poi in realtà l'introito di proteine è un pelo più alto e probabilmente protettivo. Quindi quando bisogna usare il buon senso, le ricerche ci sono, bisogna anche quando affrontiamo una dieta e stiamo perdendo peso guardarci anche allo specchio, dottor Ongaro, perché il corpo parla. Io lo consiglio sempre ai miei pazienti, cioè quando nella perdita di peso vedi che la pancia rimane lì e invece stai perdendo per esempio la massa delle spalle, le braccia diventano sempre più sottili, le gambe diventano più sottili, il seno sparisce, parlo da donna. Lì c'è qualcosa che qualcosa che non va, certo. Che stai perdendo massa muscolare invece che massa grassa, e questo è una cosa che non deve assolutamente questo accadere. Questo è proprio un consiglio pratico che vogliamo dare ai nostri ascoltatori. Voglio dare anche però la parola ai nostri ascoltatori che hanno chiamato l'800240024. Fabio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo solo raccontare un po' il mio vissuto, nel senso che io 3 anni fa ho deciso di perdere peso, sono partito da 85 kg circa e nel giro di... Ma scusi, lei Fabio quanto è alto? Perché 1,72. Ok, perché se no gli 85 in sé non ci raccontano. Erano troppi chiaramente per la mia altezza, e mi hanno indicato un peso ideale intorno ai 70 kg. Sì. E cosa che ho raggiunto abbinando una dieta... diciamo ipocalorica, del movimento, ma senza esagerare. La cosa interessante per me è stata che tutti mi dicevano: no, ma vedrai, perdere peso ce la fai, però poi mantenere sarà molto dura. Invece? In realtà io ho mantenuto, io oggi peso intorno ai 69 kg, svolgo un'attività sportiva moderata, nel senso che gioco a tennis una volta alla settimana, cerco di camminare quando posso e mantengo una dieta sulla base delle calorie, però senza negarmi nulla, nel senso certo. Che mangio di tutto, mangio anche qualche dolce, ho l'hobby della pasticceria, per cui figuriamoci. Eh sì, adesso proprio al dottor Ongaro gliel'ha detto Fabio, comunque parte il libro per Fabio, fa bene, lui diversifica, dottor Ongaro. Questa è una storia, tante volte si dice buttare giù i chili è facile, poi mantenere il peso, quello, lì ti voglio, dottor Ongaro. Beh, insomma, su questo sicuramente è vero, è un'altra cosa di cui abbiamo parlato spesso, che una percentuale piccolissima di persone che fa una dieta effettivamente mantiene il peso raggiunto nel tempo. Ecco, credo però che l'ascoltatore abbia detto una cosa molto importante e che forse spesso sfugge. È partito dicendo: ho deciso di perdere peso. Questo ho deciso è quello che fa la differenza. Oggi si sa anche che quando si parte con una frase tipo provo, è quasi sicuro che non ce la farai. E quindi è molto importante in realtà anche qua, veramente in inglese si dice il mindset, cioè l'atteggiamento mentale con cui parti nell'impresa di provare a migliorare il tuo metabolismo e il tuo corpo. E la frase che questo ascoltatore ha detto mi ha colpito, perché era molto tranquillo, però sì, ha detto: ho deciso di. No? Dottor Ongaro, intanto i nostri ascoltatori la ringraziano per i suoi consigli, ci propongono i loro casi, ci ringraziano per tornare a parlare di dieta e alimentazione, torneremo a farlo per accompagnarvi e per diventare consapevoli, responsabili anche, dottor Ongaro, me lo lasci dire, per usare il buon senso anche a tavola, che aiuta, ma soprattutto per prendere questa decisione. Dottor Ongaro, grazie, a prestissimo. Grazie a voi, grazie Nicoletta. Io lascio naturalmente la linea alla redazione per aggiornamenti. Grazie Valeria. Allora Nicoletta, cerchiamo di fare un punto della situazione, lo facciamo insieme. Tra l'altro qualche minuto fa la terza scossa alle 11:26, terza scossa anche in questo caso molto forte, riepilogando: la prima scossa alle 10:25, magnitudo 5.3 tra Monte Reale, Amatrice e Campotosto; la seconda scossa alle 11:14, magnitudo 5.4 sempre nella stessa zona, e l'ultima appunto qualche minuto fa. In tutte e tre le scosse sono state avvertite a distanza di chilometri, a Roma, a Firenze, a Rimini addirittura la prima scossa, a Roma stanno evacuando la metropolitana, stanno evacuando anche alcune scuole, perché la scossa è stata sentita proprio distintamente. Tra l'altro la sede di Radio 24 a Roma è in corso di evacuazione, perché appunto le scosse sono state sentite molto molto forte. Il terremoto è avvenuto nell'Aquilano, è stato generato dallo stesso sistema di faglie che si è attivato il 24 agosto, questo è quanto ha comunicato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. È lo stesso sistema di faglie, ma a generare il terremoto di oggi è stato un segmento diverso. Decine sono le telefonate ai centralini, ma al momento nessuna richiesta di soccorso. Ricordiamo anche che le zone investite da queste nuove scosse di terremoto sono quelle interessate da giorni dal maltempo, quindi sono sommerse dalla neve. Poco fa Adriana Fracchia è riuscita a raggiungere telefonicamente Alejandro Petrucci, sindaco di Arquata, ascoltiamolo. Senti, stiamo agitati qua, è arrivata una scossa poco fa, macello. Ci conferma che è arrivata molto forte, è stata. Molto molto forte, qui poi Ascoli Piceni io sto, non sto su perché su è raggiungibile. C'ho la strada bloccata, la Salaria non si passa. E quindi non si sa ancora se ci sono stati altri danni, altri crolli, non si sa ancora. Non sappiamo niente perché è a mandata di neve. A quando c'è più di metro e mezzo di neve e macello, guarda. Non è... Fortuna la gente è tutta evacuata, rimangono solo i poveri cristi che vanno a mangiare gli animali, insomma, ecco. Allora, è possibile che le ultime due scosse siano avvenute con epicentro più vicino l'Aquila, quindi in questo caso si sarebbero spostate leggermente. Dopo queste scosse le Ferrovie dello Stato hanno deciso per lo stop dei treni su alcune tratte, Terni-Rieti, L'Aquila-Sulmona e Sulmona-Avezzano. Si stanno organizzando delle corse alternative per permettere comunque alle persone di spostarsi. Alle 11.45, Nicoletta, faremo un nuovo punto della situazione. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. E siamo tornati insieme, ma in studio qua con me Simone Spezia, che per uno speciale vi aggiornerà sulla situazione che si è venuta a verificare dopo le ultime scosse di terremoto. Simone. Allora, Nicoletta, grazie per la linea. Adesso inizieremo a cercare di darvi un quadro complessivo della situazione, dopodiché la linea andrà a Gianluca Nicoletti dopo il...